continua il ciclo Fanta Filosofia all'Oratorio San Filippo Neri con Tlon, Maura Giancintano e Andrea Colamedici. Buongiorno Maura e benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, grazie. Allora, con questo ciclo, Maura, cercherete di indagare le tracce di futuro attraverso libri e film di fantascienza. Ti volevo chiedere innanzitutto da dove viene questa idea e come la filosofia si inserisce in questo dibattito appunto sul futuro. Volevamo riflettere su qualcosa che sembrava forse fantascienza fino a pochi anni fa, ma adesso sembra quasi il futuro prossimo, quindi metaversi, le distopie, quindi anche un mondo in cui ci sono delle minacce globali di vario genere, anche appunto pandemie che ci sembravano narrazioni fantastiche fino a qualche anno fa, ma che ci rendiamo conto sempre di più che possono in parte far parte e potrebbero far parte del nostro futuro. E quindi volevamo riflettere su questo perché la fantascienza in realtà è stata spesso considerata, diciamo, un genere di intrattenimento, un genere minore, ma è stato spesso un veicolo invece di riflessioni importanti. E quindi attraverso la filosofia volevamo dare dignità a questa letteratura che molto spesso ci aiuta a riflettere sul mondo in cui viviamo e sulle conseguenze delle azioni umane, e quindi volevamo anche immaginare insieme alle persone che stanno partecipando a questi incontri, cercare di andare un po' più a fondo e di immaginare quali potrebbero essere gli scenari futuri. Avete già parlato nel primo appuntamento di metaversi, no? Come citavi anche tu, un tema veramente quanto mai attuale. Quali saranno i prossimi temi che affronterete il 6 aprile e il 13 aprile? Sì, saranno distopie e extraterrestri. Le distopie perché appunto tante narrazioni fantastiche parlano di mondi distopici, quindi di mondi, come dire, attraversati da scenari negativi, paurosi, inquietanti, e a causa di guerre, disastri nucleari, disastri naturali, emergenze sanitarie. Quindi si tratta in realtà di scenari che oggi non sembrano così tanto lontani, ma che quasi tutti gli esseri umani, diciamo, vorrebbero evitare a tutti i costi. E quindi vogliamo riflettere su questo, anche sul fatto che a volte in realtà si parla di distopie, si tirano in ballo le distopie, ma a volte appunto legate a delle teorie del complotto, a delle notizie false. Quindi vogliamo anche riflettere e chiarire un po' tutto questo. E poi extraterrestri, perché si tratta di un altro tema affascinante, inquietante e considerato a volte in realtà culturalmente poco interessante. Vogliamo rifletterci perché anche in questo caso l'astronomia, le ricerche stanno andando avanti, e forse possiamo rifletterci anche per contrastare l'antropocentrismo, cioè questa idea di essere al centro del mondo e dei mondi. Forse non siamo soli nel mondo, ancora non lo sappiamo, però possiamo presumere che ci siano delle altre specie nel mondo che magari ci assomigliano, che hanno preso delle strade diverse dalle nostre. Forse pensarci ci aiuta anche a smettere di metterci al centro. Da quando l'essere umano si è messo al centro del pianeta, l'ha progressivamente distrutto, e allora forse dovremmo cambiare questa impostazione. Certo, assolutamente. Tra l'altro, insomma, parlare di futuro in questo periodo tra una pandemia e una guerra, ecco, non è semplice, no? Avete fatto questa scelta anche per questo motivo? Beh sì, ovviamente diciamo l'abbiamo pensata prima dell'esplosione, certo, della guerra, però sì, perché vogliamo, in un certo senso, quello che secondo noi la filosofia può fare è guardare l'orrore, cioè quello che è in parte frutto dell'azione umana, quindi anche tutte le difficoltà, le sfide che ci sono oggi, però allo stesso tempo recuperare la meraviglia. Quindi anche rispetto ai metaversi noi abbiamo fatto un discorso molto critico nei confronti di un certo atteggiamento, anche abbiamo dato voce anche all'inquietudine, alla paura delle persone. L'abbiamo anche visto però, perché ci siamo resi conto che le persone che partecipavano non avevano mai fatto esperienza anche solo di realtà virtuale, quindi abbiamo giocato anche con questo, abbiamo mostrato che cosa si vede nel metaverso, almeno nelle forme attuali di metaverso, però allo stesso tempo ci interessa parlare di complessità, quindi mostrare quali per esempio possono anche essere le opportunità. Quindi quella che cerchiamo di fare attraverso questi temi è una riflessione che allo stesso tempo sia possibile, come dire, concreta, quindi cosa sta succedendo veramente, che cosa potrebbe succedere, però allo stesso tempo non pessimistica, cioè ci interessa anche poi domandarci cosa possiamo fare, cosa è il nostro potere fare e come possiamo continuare, nonostante tutto, a coltivare la meraviglia. Perfetto, io Maura ti ringrazio veramente, insomma ricordiamo ancora una volta che i prossimi appuntamenti saranno il 6 e il 13 aprile, sempre all'Oratorio San Filippo Neri. Grazie ancora. Grazie a voi.